Mamma cercavo. Devo parlarti. Qui no, qui no. Dove sei stato? Che vuoi tu dire? A Francofonte. Santo, credimi. Santo, credimi. No, non mentire. Ti vidi volgere giù dal sentier. E stamattina all'alba quando scopo presso la salivana. Ah, mi hai spiato. No. Vuoi che m'uccido? Lasciami dunque, lasciami. Ora per disobire il giusto segno con la proprietà. Questa vana, o tua gelosia.